prima dei secoli bui, col suo benefico veleno, leniva ogni malanno altrui. L'uomo la chiamava strega e ne credeva una in ogni donna, ma per amore è maga, che di amore solo ci si sana. Oh, zolfanella, a notte fonda dentro la bottega, nell'alone di una stella, mischiando erbe e formule da strega. Oh, zolfanella, in compagnia di magiche creature, eri troppo misteriosa e bella in un mondo preda delle sue paure. Ingrossa fino a far paura, prima si allude alla stregoneria, poi si legittima con la tortura. Zolfanella non emise un fiato, e fare un nome le avrebbe giovato. Prude l'artiglio al giudice indefesso, non stringe altro che un vestito smesso, così che il signor inquisitore pensò torto d'avere ragione, che il suo braccio è così efficiente da punire un reato inesistente. Al bosco, nel chiarore di una perla, danzi tra luce